Caro sindaco, ma se ci sono 80 milioni di tifosi nel mondo occidentale, compresa ovviamente Napoli, quanti napoletani lei si aspetta che arrivino su a Castel di Sangro? Almeno la metà, presidente. Che esagerazione! Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Tutto bello, tutto normale, perché vogliamo tornare alla normalità, ai palli di mano volontari, bisogna avere più discrezionalità da parte degli arbitri, tutto quello che volete. Ma come mai state facendo tutto sto casino dopo due rigori dati alla Juve? Anti-juventino da sempre. Comunque in area le mani vanno tenute dietro e gli attaccanti fanno danno in area. Svegliatevi, mirate le braccia anche voi come fa la Juve, che si è adeguata. Quando li davano contro De Ligt, tutto bene, è il regolamento. Adesso due a favore della Juve, mamma mia, cambiamo il regolamento del calcio mondiale. Perché ogni volta che ci sono episodi, dubbi applicati al regolamento in un modo o nell'altro, quando c'è di mezzo la Juve, chissà perché vanno sempre in una certa direzione. Non sarebbe semplicissimo come regola mettere fallo di mano volontario e rigore, fallo di mano involontario, calcio di punizione in area, cosa che non si vede più. Ragazzi, rigore è quando arbitro fischia. Vabbè, queste le opinioni dei nostri ascoltatori via WhatsApp, anche sugli argomenti che abbiamo ampiamente trattato ieri, ma se volete lo facciamo anche oggi, 800 24 0024 per le vostre telefonate. Pierluigi Pardo, ciao. Ciao. Che esagerazione. Ma sì. Radio Twitch? Sì, Radio Twitch è su Atalanta Brescia, che sappiamo, sì. Insomma, è la storia di una rivalità fortissima, enorme. Io pure ne ho raccontate alcune in passato. Mi ricordo una volta che il mio direttore Massimo Corcioro andò lì, non era esattamente una partita di altissima classifica, mi disse però che insomma gli serviva uno un po' strutturato, perché era una partita che aveva dei risvolti che potevano essere anche delicati. E credo, visto nelle ultime settimane, nelle ultime ore, molta sensibilità da una parte o dall'altra, che non deve assolutamente diventare, diciamo, rimuovere la rivalità, perché la rivalità fa parte del calcio e della vita, ma deve dare secondo me una prospettiva diversa, proprio alla luce e per rispetto di tutto il dolore che tutto il mondo, ma in particolar modo queste due province, hanno provato. Insomma, io credo che sia un'occasione per sentirsi parte di una grande comunità, e ho visto dei segnali in queste settimane, sì, che sono assolutamente belli e positivi. Poi la rivalità in campo ci deve essere, ci sta che i bergamaschi gufino il Brescia e viceversa, perché fa parte della vita e del calcio, ma insomma io credo che questo dolore enorme abbia reso ancora più vicini. Ne ho già parlato, e bene, Gasperini, no, Pier? Sì, sono città colpite, non sono soltanto loro, perché poi c'è Cremona, perché poi ci sono le Marche, perché poi comunque anche una singola morte di una persona in un posto dove c'è stato un solo caso è un dolore per tutti, no? Quindi poi non si fa la contabilità, tra l'altro, del dolore e delle morti, però certamente quel territorio lì è stato colpito in maniera particolare, e alcuni segnali che sono arrivati in queste settimane mi sembra che vanno nella direzione di essere appunto rivali in campo, ma uniti e solidali, sì, che è una cosa importante. In nome di qualcosa di più grande, di più importante, hai ragione Pierluigi. Tra l'altro, nota di cronaca delle ultime ore, l'Atalanta non avrà Muriel, il suo bomber stagionale, perché ha avuto un incidente domestico, cioè caduto in casa, pare nella doccia, non è chiaro tutto questo, ma in fondo non è questo nemmeno il punto. Ha preso una bella botta alla testa, quindi è stato... è sotto controllo, nulla di particolarmente grave, ma questa è la notizia di cronaca. In un Atalanta, Gasperini vorrebbe provare a fare turnover, secondo me ha ragione, perché credo abbia in mente anche qui obiettivi più grandi e più importanti. Senti Pier, un'altra notizia di questi giorni, la leggiamo oggi sui giornali, è questa così idea di aprire gli stadi al pubblico. Ne abbiamo parlato un milione di volte per il finale di campionato. Non c'è grande così unanimità di giudizio, di consenso su questa proposta, soprattutto da parte del comitato tecnico scientifico. A questo punto, con tutto già scritto, già deciso, vale la pena fare uno sforzo e aprire parzialmente gli stadi? Si parla 25-40%, ovviamente il grosso problema è quello degli ingressi, degli accessi agli stadi, eccetera. Vale la pena fare questo sforzo o riprogrammare per l'inizio del prossimo campionato? Anche qui ne parleremo, ne ha parlato De Laurentiis, che ancora non è chiaro quando sarà. Esatto, guarda, ci sono mille anomalie, perché ci sono ormai tanti assembramenti, feste, eccetera, poi cose che non sono ripartite, tipo la scuola, quindi per cercare una logica è sempre molto complicato e molto difficile. Io penso che la decisione debba essere presa dal comitato tecnico scientifico. Penso che questo virus, in questi ultimi giorni, se guardiamo a livello mondiale, purtroppo sta consegnando un quadro molto, molto complesso. Noi siamo usciti dal grosso del problema, anche se io vedo tanta civiltà. Sinceramente, la mia esperienza personale, io voglio vedere tantissima gente con le mascherine, cioè, secondo me, veramente per l'ennesima volta bisogna sottolineare come il popolo italiano sia stato per massima parte, in grandissima parte, molto attento e molto obbediente e abbia capito il problema. Qui su tornando al calcio, deve decidere il comitato. L'obiettivo deve essere quello, insomma, io non ho dubbi che bisognerebbe aprire, però non dobbiamo neanche prenderci dei rischi, no, assurdi. Soprattutto ci sono stati degli assembramenti, per esempio il famoso caso della vittoria del Napoli in Coppa Italia. Oggi mi sembra di poter dire, passato credo ormai quasi un mese, penso che si possa dire con assoluta serenità che non credo abbia portato grandi problemi, perché c'erano veramente tantissime persone quella sera a festeggiare, e vedo i casi della campagna, mi sembrano pochi, non mi pare che ci sia un'emergenza, fortunatamente. Quindi non è che per forza assembramento o stadio aperto significhi contagio, ecco questo. Però ripeto, qui io faccio un passo indietro, cioè c'è la scienza, c'è chi studia questa materia da mesi, devono essere loro a decidere, insomma. Allora, 800 24 00 24, numero verde se volete intervenire, WhatsApp vocali 349 238 6666. Poi avremo il Bar Tour, torneremo sui casini della Ferrari, eccetera eccetera, quindi avremo tanti argomenti, ma restiamo sulla cronaca di ieri, con la vittoria dell'Inter sul Torino, dopo quella roba di Handanovic che definire papere riduttivo, cose che capitano, no Pierluigi? Cose che capitano, anche se... Ti è piaciuta l'Inter nel complesso? Mi è piaciuta molto, il secondo tempo a un certo punto ha giocato libera, ha avuto occasioni, poteva fare anche il quarto gol, mi è piaciuta la reazione sicuramente, continua a essere una squadra che concede, anche sul 3-1 ha concesso un'altra palla con la Belotti, insomma non è l'Inter impermeabile che aveva in testa Antonio Conte. Ha preso tre punti che sono importanti, tecnicamente in questo momento è seconda, anche se praticamente ha pari merito con la Lazio, e credo se la Juve, ma io voglio aspettare ancora Sassuolo, perché Sassuolo e Juve-Lazio, voglio aspettare queste due partite, perché la Juve non mi ha convinto del tutto, sinceramente, nelle ultime due gare, quindi probabilmente uscirà bene da questa situazione, tra la voce del padrone, la vedremo a Reggio Emilia e finirà il campionato, però voglio ancora aspettare due partite. E se tutto andrà come è probabile, io penso che l'Inter dovrà mordersi le mani, non perché la sconfitta col Bologna, il pareggio col Sassuolo e quello di Verona, se non ci fossero stati avrebbero portato automaticamente al titolo, però avrebbe potuto stare molto di più, cioè, stiamo parlando di imprese, no, stiamo non parlando stiamo di vincere una partita dove sei 1-0 e 11 contro 10 col Bologna, o di non buttare una partita dove sei stato 2-1 e 3-2 col Sassuolo e hai avuto palle gol incredibili. Guarda, ecco, di costruirsi quelle condizioni. Sì, certo. Con 5 punti in più, poi è vero che pure la Juve ha avuto le sue occasioni perse, pure la Lazio, che questo vale per tutti, pure l'Atalanta nella prima parte della stagione, però l'Inter ha buttato via tutto per degli sbalzi d'umore in partite apparentemente molto facili, questo è abbastanza oggettivo. Senti, facciamo insieme i complimenti e gli in bocca al lupo a un carissimo amico che è al telefono e che ha accettato una nuova avventura, gli fa molto onore. Ciao Gianni De Biasi. Ciao Carlo. Ciao. Com'è, riparto da zero? Beh, questo è straordinario, Azerbaigian. Te l'ho scritta io, però. Senti, nuovo CT dell'Azerbaigian, Gianni, dopo essere diventato praticamente eroe nazionale in Albania. Devo dire che fa molto onore la tua apertura mentale, la tua curiosità, comunque, accettare questa avventura, Road to Qatar, strada verso i mondiali alla ricerca di un'altra impresa. È chiaro che un po' a noi ci rode, perché a Baku sarà un po' più difficile stanarti. ma neanche troppo, esatto. Ormai siamo in un villaggio globale, ahimè, e questo sicuramente aiuta la comunicazione. Ho accettato questa sfida perché volevo provare a rimettermi in pista e provare a fare delle cose diverse, dal salvare una squadra in Serie A che mi aveva chiesto anche quest'anno di entrare, ma non me la sono sentita, quindi ho preso questo impegno. È una sfida sicuramente difficile, però proviamo a fare del nostro meglio. Calcio a zero com'è? Così per curiosità. È la parola stessa. Non dirlo. No, c'hanno una buonissima squadra che è il Karabakh, che ha fatto anche il girone di Champions, mi sembra fosse anche con l'Inter. Con l'Inter. E poi c'è il NEFC Baku, sempre una delle squadre più interessanti, ma poi il resto sono pochissime squadre, al tempo stesso con una qualità non altissima. E la differenza tra qua e l'Albania è che molti degli albanesi giocano all'estero, mentre lì pochi purtroppo giocano all'estero, pochissimi. Sì. Questo è il problema principale, perché in realtà il campionato è quello, e non è che hai chissà quali picchi di valore, certo. Però cerchiamo di lavorare sull'orgoglio e sull'organizzazione, e poi vediamo cosa salta fuori. Diciamo che tutto sommato abbiamo il girone di Nations League che potrebbe essere alla nostra portata, perché sai che giochiamo tutte più o meno alla pari, anche se poi delle differenze ci sono, però vediamo di almeno di tagliarci uno spazio lì. Pier, non so se sei mai stato in Azerbaigian, io no, a trovare Gianni Biasi, però vado volentieri. Se ci ma io sì, non so, lui non va alla finale di... l'anno scorso quando ha vinto Sarri, no, io ci sono stato 5 anni fa perché avevo due giocatori che giocavano lì a Baku, e proprio uno al Karabakh. Ti dirò che è una città bellissima. Mi ha sorpreso molto, perché pensavo di andare in un paese, non mi ero documentato prima, pensavo di andare in un paese chissà come, invece ti dico, c'è grandissime strutture, hanno la forza del petrolio e del gas che producono in quantità importante, anche se oggi il petrolio non è altissimo come prezzi, però tutto sommato, a parte quelli della pompa che paghiamo noi, però il resto credo che sia una situazione abbastanza molto interessante per vivere, sì. Ma poi mi rifaccio alla prima parte del discorso di Gianni, cioè secondo me io un po' lo conosco, siamo amici. C'è questa componente fondamentale che è la curiosità. Appunto. Ed è soprattutto il fare le cose che ti va di fare e non fare le cose che non ti va di fare, perché spesso la vita delle persone è incastrata in ragionamenti di marketing, il posizionamento, se fai così ti vedono così, se non fai questo non ti vedono. E invece devi fare quello che ti va di fare, poi puoi fare degli errori, puoi fare delle figate, non sappiamo mai come andrà a finire, ma chi ha la fortuna comunque di poter essere in qualche modo artefice del proprio destino e ha questa curiosità, secondo me non sbaglia. Io gli auguro un'altra impresa come quella con l'Albania, dove veramente è entrato nella storia del paese, insomma, ci sono, dopo Edi Rama c'è lui, praticamente, nel pantheon degli albanesi, perché ha fatto veramente una cosa incredibile, e ripeto, la curiosità, lo spirito, il tuffarsi nelle cose, io penso che per un allenatore, ma tantissimi altri lavori, il signor De Biasi ne ha fatti di giri in vita sua, in situazioni in cui magari poi come in Spagna non ti sei trovato, non hai avuto grande fortuna, non è stata poi una gran figata, in altre situazioni in cui invece sì, però tutto questo ti rende merito. Beh, basta con gli elogi, fermiamoci un attimo Gianni, però stai lì, torniamo tra un secondo. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, stavamo parlando con Gianni De Biasi, neo-CT dell'Azerbaigian, ma proviamo a affrontare anche un paio di argomenti italiani. Gianni, nei panni di Pioli, stai facendo bene, stai bene con la tua squadra, ma sai già che finisce qui. Ti è mai capitato? Non mi ricordo, perché io mollo prima che mi mandino via sul posto. No, credo che lui si stia intanto ritagliando un finale di stagione molto bello e ha dimostrato di essere un ottimo allenatore, persona equilibrata, che a me piace molto, e credo che probabilmente il Milan si mangerà le mani magari fra sei mesi o anche meno. Perché non sempre chi arriva può fare meglio di chi c'era, anche se magari stravolgerà o migliorerà questa squadra. Io credo che Pioli avesse trovato ormai, secondo me, le corde giuste sulle quali incidere sui giocatori. Credo che la squadra si sia molto compattata con lui, è una squadra che ha fatto bene, e credo che tutto sommato avrebbe meritato una sorte diversa, però lui, da grande professionista, riesce a continuare a lavorare nonostante gli facciano girare tutti i giorni quelle cose lì. È già in questo clima da Last Dance, Pierluigi. sai già che si avvicina all'ultima partita, che non c'è altro destino. Poi il Milan vuole aprire una scuola globale con Ragnik, ne abbiamo parlato un sacco soprattutto la settimana scorsa, però il Milan non è la galassia Red Bull dove ti danno soldi, ti danno tempo, non ti stanno addosso in maniera particolare con i risultati nell'Ipsia, nel Salisburgo eccetera eccetera, hanno un progetto diverso mondiale che coinvolge tanti stati. L'altro giorno leggevo un'intervista di Giovanni Galli che diceva: no, fa bene a prendere Ragnik, magari c'è la rivoluzione rispetto al passato, si ricomincia da capo, eccetera, eccetera. Serviranno 5 anni. Ma come 5 anni? 5 anni al Milan mi sembra un po' tanto. Infatti, soprattutto adesso, perché ho fatto 1000 volte questo ragionamento: se il Milan avesse qualche anno fa, 10 anni fa, insomma, dopo gli ultimi grandi successi, se avesse iniziato lì un percorso di questo tipo, sarebbe stato molto più facile, molto più accettabile, molto più logico e razionale. Oggi arrivi dopo una serie di annate che non sono state brillanti, ed è abbastanza ovvio che il tifoso, soprattutto, è abituato bene, perché insomma ti chiami Milan, hai vinto tantissimo, insomma è una storia enorme. Oggi il tempo scarseggia, quindi l'idea dei 5 anni, ma anche di 3 anni, è molto complicata. Pioli sta tirando fuori il meglio, forse l'elemento appunto da The Last Dance, da ultimo ballo, sta diventando benzina importante, psicologica, per lui, per i suoi giocatori. Quindi, però poi ci sono i meriti sono indiscutibili. La preparazione, la struttura, mi verrebbe a dire, userei proprio questa parola, dell'allenatore dell'uomo, è indiscutibile. Sì, certo, è dimostrato certo. In 1000 momenti. Sì, Penso quello che è successo a Firenze, quanto lui sia stato una bussola in campo e fuori per la sua squadra, per la gente di Firenze, quanto abbia dato veramente una grande mano. Quindi lo spessore umano e d'allenatore è enorme, probabilmente si esalta soprattutto nei momenti di difficoltà. Questa può essere una chiave interessante. Quindi forse questa sospensione è un'ulteriore benzina che lui sta riuscendo a trasformare in qualcosa di importante. Volevo chiedere a Gianni De Biasi invece un'altra cosa che non c'entra nulla con questo argomento di questi giorni. Puoi immaginare quanto ne abbiamo parlato, no? Io e Pierluigi, quanto ne hanno parlato gli ascoltatori. Da allenatore, come si allenano i difensori a schivare il pallone con le braccia? Bella. Io l'ho detto ieri in un'altra trasmissione, ho detto che è veramente ridicolo come si possa alterare il risultato delle partite. Io capisco che c'è la necessità di vedere far gol, ma se devo solo vedere delle partite che si sbloccano, che si risolvono con dei calci di rigore assegnati, perché una parte purtroppo che del nostro corpo umano è una propaggine, chiamiamola così, le braccia attaccate al corpo, ti sbatte contro e ti danno calcio di rigore. Credo veramente che ci voglia qualcosa di più e ci sia un po' da rivedere questa regola. Gli arbitri d'altronde cercano di mettere in pratica quello che è il regolamento, e quindi tanto di cappello per gli arbitri, però il problema in fondo è che secondo me le partite non si possono ma è anche, insomma, ma infatti penso ai vari messaggi che sentivamo all'inizio . E chi continua a fare un ragionamento di bandiera non è sulla strada giusta, c'è un nuovo ragionamento che riguarda tutti, la Juve, esatto, tanto per esatto. essere chiari, di rigori contro così ne ha avuti, quindi cioè veramente è chiaro che uno sfogo come quello di Gasperini l'altro giorno alla fine di una grande partita e di una stagione che sta avvolgendo al termine diventa un'occasione secondo me costruttiva per ripensare dall'inizio della prossima stagione l'interpretazione di questa regola. Tutto qui, poi è ovvio che le regole quest'anno sono queste, sono state applicate, ribadisco, i due rigori per la Juve c'erano da regolamento, l'ho detto pure Gasperini, però visto che poi ormai fra due mesi comincerà una nuova stagione e visto che questi episodi da una parte e dall'altra ci sono dall'inizio dell'anno, può essere un'occasione costruttiva per provare a cambiare queste regole che mi pare ci facciano un po' schifo a tutti, perché vanno contro... È proprio quello. È proprio quello, Pier, che io dicevo. Io non avevo nessuna... Gli arbitri si rimettono quello che è il regolamento, ma questo regolamento non può essere sopportato più, perché è una cosa inguardabile. Per chi ha giocato a calcio è una cosa che non ha né capo né coda, veramente. No, ma anche perché non puoi vedi i difensori andare quasi in scivolata con le braccia dietro la schiena. Cioè, secondo me non è naturale. Esatto, perché tu quando corri hai bisogno delle braccia per tenerti in equilibrio. Le braccia spesso e volentieri sono un po' staccate dal corpo, ma se ti batte contro in maniera involontaria, secondo il mio punto di vista, non ci deve essere calcio regolare. Se uno lo fa deliberatamente, tanto che bella. Ma la cosa assurda è che spesso e volentieri per un fallo di mano involontario, tra virgolette, però ti ha preso e metti quello che vuoi, poi ti prendi anche l'ammunizione e quindi hai oltretutto il danno e la beffa, no? Capisci? Una roba che non ha né capo né coda, secondo me. Ma secondo te bisogna tornare al concetto di volontarietà? Basterebbe che tutti ci allineassimo sul fatto che l'arbitro è fallibile come tutti noi mortali e che quindi potrà considerare il fatto di essere volontario o involontario. A quel punto lì, secondo me, si rimettono le cose apposta, però è chiaro che si aprono altre, ma va bene per i giornalisti e per chi fa trasmissioni sportive, è il massimo dei massimi in questo aspetto. No, va bene per i giornalisti, guarda, fino a un certo punto, perché ieri per Luigi faceva un discorso molto interessante che è quello di, dicevi, guarda che per noi telecronisti è un incubo totale, no, Pier? Sì, ma guarda, non faccio nomi dei miei colleghi, ma sono in contatto con molti di loro, è un incubo, perché poi alla fine chiaramente non hai la responsabilità che ha l'arbitro, però comunque ti trovi spesso a commentare delle situazioni che o non vengono decise bene oppure si basano su un regolamento scritto in maniera abbastanza confusa o con delle casistiche molto complicate e in qualche caso decisioni corrette, come ribadisco è successo in occasione di Juve-Atalanta, che sono corrette, ma che appunto giustamente, ma non solo nel caso di Juve-Atalanta, di tantissimi altri episodi, tantissime altre partite dove veramente il pallone sbatte sul braccio di un giocatore, quindi il braccio è largo, c'è un aumento di volume assolutamente involontario e quello è calcio di rigore. E un'altra cosa importante che diceva ieri Carlo, secondo me, è il fatto del punteggio basso. Un calcio di rigore in una partita di calcio ha un peso enorme, perché può essere decisivo, non è il basket dove sei 78-86, sbagli un fischio, due tiri libero, esatto. Cioè ha un peso che può veramente cambiare una partita. E quindi, però ripeto, bisogna essere costruttivi, serve un coordinamento internazionale e appunto è una, secondo me è un tipo di ragionamento giusto questo. Per il gioco, lo spirito del gioco, io l'ho avuto con Bonucci la settimana prima, cioè voglio dire, proprio veramente non è mai come questo. Gli episodi arbitrali, gli errori arbitrali ci sono, li commentiamo e sono... Ma va bene anche un'altra cosa, sono un'altra cosa. Qui stiamo parlando proprio delle regole. Delle regole per il futuro. Gianni, ti ringrazio. Senti, tieni il telefono acceso però, Baku. Va bene, d'accordo. Cioè, faccio avere un numero tutti. A zero. A zero, va bene. A zero. Un abbraccio. Ciao, Gianni. Ciao a tutti. Allora, Pier, saluto anche te. Poi mi tuffo nel bar tour per sentire cosa dicono sulla Ferrari. Io ascolto, che devono dire sulla Ferrari? Dai, sono molto curioso. Gli ascoltatori già ci sono andati giù pesanti e poi ne sentiamo qualcuno. Amaritudo. Ciao. Allora, ciao. Fermiamoci per la borsa, poi apriamo il bar tour. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Mister Gente e Pierpardo vi aspettano. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Tutti convocati. Io non credo che la Ferrari SF1000 abbia un motore meno potente di quello dell'anno scorso. Non ci credo. Quindi per esclusione cosa rimane? L'aerodinamica e il corpo vettura, ossia il suo baricentro. Caro Leclerc, che lascia stare il gioco virtuale di PlayStation, è diverso e sicuramente il tuo istinto lì ti ha fatto sbagliare. La Ferrari è cominciato ad andare a male dalla scomparsa prematura di Marchionne. Questa è la verità, manca il leader. Il direttore artistico oggi mi perdonerà, mi sono permesso di usare il magnifico pezzo da lei suggerito per mettere qualche opinione degli ascoltatori. Buongiorno Marino Bartoletti. Chiunque sia il direttore artistico, so che è una persona molto tollerante, quindi non può che aver gradito questo insert. Resta il film dell'orrore, resta l'orrore in rosso naturalmente. Ma secondo te come l'ha presa Turrini? Turrini male. Guarda, io oggi sono qui veramente solo per ascoltare. Perché sono solidale fin da adesso con la sua malinconia, con il suo dolore. Lasciami solo dire che noi vecchi ricordiamo che comunque la Ferrari, che sin dall'inizio si aveva abituata a vincere il mondiale in ogni decennio, anni 50, 60, 70, poi per la verità negli anni 80 e negli anni 90 non ha vinto, quindi ci sta che ogni tanto ci si possa prendere una piccola pausa di riflessione. Più che pausa, una quaresima mi pare questa. Buongiorno Turrini. Io sono in coda sulla Piero Cormano, come sempre voi certamente avete voglia di chiedermi perché. Posso immaginarlo, ma perché? C'erano due panda rosse che procedevano lentissimamente e uno dei due autisti originario di Monte Carlo ha deciso di speronare il suo collega tedesco. Questo ha reso ancora più complessa la situazione. C'è qui una signora di Vimercate molto elegante che sta inveendo dicendo: ma voi non dovreste essere i piloti della Ferrari? Questo è il grande problema. I piloti, nonostante l'episodio sciagurato di domenica imputabile all'irruenza del principe di Monaco, ci sarebbero anche, ma la macchina ragazzi è una cosa, è una desolazione. Voi avete messo Profondo Rosso, ma io correggerei il titolo del brano scelto dal geniale direttore artistico in Profondo Rosso. Sì, qualcuno... qui siamo veramente nel a parte il fatto che a parte siamo sotto zero. Non ti interrompo maestro Denta, no, mi lasci dire una cosa, me ne guardo ruberò bene a Woody Allen. Posso? Ma certo. Sì, grazie. Allora, Cristo è morto, Marx è morto e anche io e Binotto non ci sentiamo tanto bene, quindi capite da soli che la situazione è drammatica. Ecco fatto, adesso vi lascio la parola. No, io la lascio a Marino Bartoletti. C'è chi, vabbè, a parte il fatto che si comincia a mettere in discussione, sembra l'Inter, no? La Ferrari si mette già in discussione. Momento, Leclerc. Momento, vabbè, a parte che ho un pilota per te, fermi tutti, poi parliamo della Ferrari. Da quando è ricominciato questo campionato, stranissimo, speriamo per ovvi motivi irripetibile, cioè l'Inter poi ha perso una partita come la Juventus, eh? Tutti a fare un casino, un circo mediatico incredibile, ma ne ha persa una esattamente come la Juve, la Lazio ne ha persa quattro. Cioè se Conte aveva fatto come Simone Inzaghi, tu e Pardo, chissà che cosa dice davanti, il processo di Verona, Galeazzo, Ciano. E ma guarda che più su Pardo, guarda sono che sono i tuoi correligionari, no, che vogliono mettere, no, in croce già Conte. Mica Cormano, allora mica voglio dire, Pardo ha alleviato il nostro lockdown con quella trasmissione su DAZN che si chiamava Parto con Pardo, ma il titolo era sbagliato perché finiva sempre al ristorante, bisognava chiamarla Magno con Pardo, perché era sempre una forchetta, uno spaghetto, un maccherone, capito? Sì. Allora il tuo socio glielo devi dire. Adesso lascio la parola. Sarà fatto. Maestro coetaneo, ultracentenario Mario Battaglia. Anch'io volentieri. No, io guarda, oggi veramente mi pregio di voler essere solo uno spettatore di questa meravigliosa, ascoltatore di questa meravigliosa trasmissione. Immaginavo Turini accalorato, ma effettivamente lo trovo un pochino più accalorato di quanto non pensassi, e ne ha ben d'onde. Però guarda, lasciami partire da questo. Io, sai che ultimamente sono abbastanza critico nei confronti delle scelte del direttore artistico, che non sappiamo chi sia. Sì, profondo rosso, bello, corretto, ma un po' banale. Ma caro Leo, se il direttore artistico avesse scelto, era già tutto previsto, avrebbe sbagliato. Riccardo Cocciante, ma certo, persino quello che sceglievi. Infatti Leclerc, quando va in partenza, che è in settima fila, ha già scelto chi deve tamponare tra i tanti. Chi? Vettel. È chiaro, Riccardo Cocciante con le parole di Ruberti aveva capito tutto, ma io vorrei anche aggiungere, quando finisce un amore, come è finito il mio, sempre di Cocciante, e poi visto che volete farmi strafare. Vorrei dire a proposito di Binotto, Vettel e Leclerc, se non stiamo insieme ci sarà un perché, hai capito? Perché qui veramente siamo in una condizione tristissima, io lo dico con la morte nel cuore, lo sapete, lo capite dalla mia pronuncia, vengo proprio da lì, è un periodo davvero buio per la Ferrari, perché la macchina purtroppo è sbagliata, e questo l'abbiamo capito, i vertici aziendali, lo dico con grandissimo rispetto e anche molto affetto, ma somigliano al Vallanzasca giovane, latitante. Voi avete sentito John Elkann in questi giorni intervenire qualche cosa, il presidente? Avete sentito il mio amico maltese Camilleri, amministratore delegato, dire qualcosa? Niente, tutto tace. Poi è chiaro che non si vince un gran premio alzando la voce. Però è questo che accentua la depressione, la sensazione di essere in un buco nero e non avere una prospettiva. Ecco, questo è veramente è molto, molto, molto triste, molto, molto triste. Io vorrei che Marino mi sollevasse lo spirito, perché posso dirvi anche un'altra cosa. Io e Marino Bartoletti nella nostra carriera artistica abbiamo fatto un solo errore. Posso dirlo, Marino? Sì. Certo. Quando accettammo di fare i cori di un brano dei Pandemonium che si intitolava Tu fai schifo sempre, no? E Marino mi disse: ma no, ma facciamolo perché domani potrebbe venire buono come colonna sonora della Ferrari, e l'abbiamo fatto e ce ne pentiamo ancora. Condividi la depressione, Marino? No, guarda, io condivido il fatto che oggi è tanto bello ascoltarlo che è altrettanto bello fargli delle domande. Noi abbiamo vissuto le grandi depressioni, caro Leo, soprattutto a quello che dicevo prima, dagli anni 70. Ma qui altro che depressione, qui siamo alla fossa delle Marianne, siamo, hai capito, vabbè. Anni 80, anni 90, venne a mancare il Drake, però il Drake c'era anche in quegli anni lì. È vero che nei primi anni 80 un paio di titoli mondiali li avremmo potuti vincere se veramente una sfortuna terribile, tragica, non ce l'avesse impedito. Io non chiedo ai ferraristi di sopportare ancora, per altri quanti sono ormai, dopo l'ultimo Raikkonen, un'altra decina d'anni, però c'è una differenza fra questa e quella depressione. Da quella si uscì in qualche modo grazie a Schumacher, certamente, ma grazie anche a una gestione aziendale non banale, perché è vero che molti dicono: ah, se c'era Marchionne qui le cose andavano meglio, però Marchionne con la Ferrari non ha mai vinto. Qualcuno potrebbe dire: ah, se c'era Montezemolo le cose potrebbero andare meglio. Apriamo il rubinetto della nostalgia? Beh, allora, questa è una crisi che viene da molto lontano. Tu hai capito benissimo, lo hai fatto capire anche a noi con questo intervento. Io mi ricordo che nel 2014, quindi non torniamo al Giurassico, Sergio Marchionne disse: dobbiamo mandare a casa Montezemolo perché non vinciamo il mondiale da 6 anni. No. E statisticamente era vero. Nella gestione dell'avvocato, peraltro, la Ferrari aveva vinto 6 titoli piloti, 8 costruttori, aveva perso 7 campionati all'ultima gara. Da allora in poi non è mai arrivata a giocarsi il titolo all'ultima corsa. Io a Marchionne riconosco una cosa, però, perché avevo imparato a conoscerlo e insomma ci volevamo anche bene, che quando purtroppo se n'è andato, parlo estate 2018, in quel momento la Ferrari era in testa al mondiale con Vettel, non so se vi ricordate, sì. 2 anni fa. Sì. Quindi bisogna mettere poi in prospettiva tutto quando si fa una lettura storica. Il problema è che adesso, ribadisco, si ha la sensazione qui dalla coda della Piero Cormano che al di là del deficit tecnologico, che è innegabile, ci sia anche una mancanza di visione. Cioè, quello che fa stare male, poi dopo vi lascio parlare perché oggi sto esagerando e vi chiedo scusa, ma come vi ho detto è morto Cristo, è morto Marx e anche io e Binotto non stiamo tanto bene, è che non è che la Ferrari vada più piano della Mercedes e anche della Red Bull, che ci può stare. In questo momento va più piano della McLaren, della Renault, della Racing Point e udite udite persino di una macchina, qui io sono affezionatissimo perché è ex Minardi, che si chiama Alfa Tauri. Allora sì. Qui siamo veramente... È una macchina mitologica praticamente. Sì, ma siamo nel profondo rosso, perché se sei ridotto che sei la sesta squadra di un campionato con 10 team... E ti devi porre degli interrogativi tanto, che sono molto, molto pesanti. Tanto che viene addirittura il sospetto che il prodotto di domenica sia di una strategia di scuderia sofisticatissima. Gli hanno detto inzuccatevi alla prima curva così evitiamo l'onta della classifica finale. Ovviamente sto esagerando volutamente. Traffico, torniamo subito con Marino Bartoletti e Autorini. Settima di Hamilton, 9 di fila della Juve, poi magari, ma non si sa, una Champions della Juve quest'estate. Turrini, ti viene lo scepone. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Se stiamo insieme ci sarà un perché e vorrei riscoprirlo stasera. Se stiamo insieme qualche cosa c'è che ci unisce ancora stasera. Io ringrazio il maestro Filippo Aureggi che prontamente ci ha messo uno delle colonne sonore, no, che potrebbe essere di questo Bartura. Marino, torna Alonso, gran pilota che alla Ferrari ha immolato la sua carriera. Anche Vettel ne esce a pezzi dall'avventura con la Ferrari. Se stanno insieme ci sarà un perché. Vabbè, perché tramonta alla fine di questa stagione. Beh, insomma, sono diversi ormai i piloti che escono con le ossa rotte dalla rossa. E pensare che dicevano che era il vecchio Enzo Ferrari Saturno, invece mi sembra che Saturno sia arrivato dopo, sinceramente. Guarda, mi è testimone di una cosa il mio attempato coetaneo collega, che per anni e anni la politica della Ferrari è stata quella di non avere il miglior pilota che c'era, perché il vecchio aveva piacere che si dicesse ha vinto la Ferrari, non ha vinto chi ci è sopra. Poi quando lui se n'è andato c'è stata la prima vera inversione di tendenza, perché i suoi successori alla guida della scuderia dissero mi sa che la Ferrari non basta per vincere, il vecchio non c'è più, proviamo a prendere quello che è il miglior pilota che c'è in giro. Cioè allora Schumacher, che per la verità ci mise 4 anni per vincere il mondiale, se non ricordo male, attraverso molte peripezie, alcuna sfortunata, alcuna no. Dopodiché purtroppo invece il lodo Schumacher, e cioè prendere sempre il migliore per vedere di rimediare le cose, è diventato praticamente il mood comune di questa nuova gestione. Evidentemente forse bisognerebbe tornare a pensare prima alla macchina e poi al pilota, perché nel mondo della Formula 1 ormai da molti anni l'uomo della provvidenza non c'è più. Sì, Leo, spero che con l'ascoltatore che non ti venga un scioppone, come ha detto. No, io quello lo do per scontato, perché il mio amico Savio, che è da domenica che mi travolge di porca vigliacca. lo salutiamo tutti insieme. Tornando all'ascoltatore, vedo già la bellissima immagine di Chiellini che alza la coppa con le orecchie, quindi sono molto sereno, molto tranquillo. No, Marino ha detto una cosa giustissima che viene dalla memoria storica. In tutta la sua gestione Enzo Ferrari solo una volta sul pilota già campione del mondo in Formula 1 era Fangio, e fra loro, anche se vinsero, finì a schifio. Adesso la Ferrari ha bruciato, se andiamo a vedere gli ultimi decenni, ecco, così allarghiamo il discorso, Alboreto, Prost, Mansell, Alonso, Vettel, gli unici che ce l'hanno fatta in più di 40 anni a vincere il mondiale con la macchina rossa sono stati Scheckter, Schumi e Raikkonen. L'anno prossimo si riprenderà con Sainz accanto a Leclerc. Però io ci pensavo domenica, vedendo quella gara in Austria, no? Ma chi ha fatto l'affare per il 2021? Vettel, che forse se ne va in pensione, o Sainz, che lascia la McLaren, che va molto più forte della Ferrari, e viene a Maranello? Io credo che Sainz faccia fatica a addormentarsi alla notte adesso. Vabbè, siamo veramente ai limiti diciamo le cose come stanno, ai limiti della depressione proprio totale. Questa è la nostra verità. Meno male, ripeto, che io ho visto su DAZN tutta questa serie Magno Compardo, che mi ha suggerito una sequela di Ristoranti, dove potrò sfogare a tavola la mia frustrazione di tamponato sulla Pero Cormano. Sì. Tra l'altro domenica si torna a correre in Ungheria, poi c'è anche questo per effetto della pandemia, che una volta tu facevi un gran premio, no? Mettiamo caso, la Ferrari faceva piangere, dicevi, beh, ci sono 2 settimane, no? No, adesso si corre in continuazione, Però Leo, almeno da questo weekend io e Marino ci consoliamo con le moto, perché comincia il moto mondiale. È vero. A proposito, c'è quel tuo amichetto che dalla moto non vuole scendere Marino, più. Come sempre, alla fine parla di Valentino Rossi, che gli ha fatto la pipì tra le gambe, va bene. Ma la verità è che Marino non la vuole confessare, è che lui correva insieme a Ubiali, che ci ha lasciato pochi mesi fa. C'era quel team, i piloti erano Ubiali, Bartoletti, e una leggenda dice che pare che Bartoletti in curva fosse anche più veloce di Ubiali. Non so se lui vuole confermare questo tratto. Sì, perché me l'aveva insegnato Nello Pagani 10 anni prima, come si curvava. Lo sapevo. No, ma il tuo amichetto invece che continua a voler stare insieme a noi, a rallegrarci, Marino? Come sai, io ho 2 amichetti, uno che invece mi vogliono far scendere dalla moto, e la cosa mi addolora un pochino, anche perché lui è un rigorosamente un mio cittadino di cui vado molto orgoglioso. Parliamo di Andrea, che bene o male negli ultimi 3 anni ha conquistato 3 secondi posti, non credo che sia ancora una colpa, e quindi io spero in un recupero di lucidità da parte dei miei amici, dei nostri amici della Ducati. L'altro mio amichetto, è vero, che io conosco da quando aveva 5 mesi, da quando fece quella prestazione come segno d'affetto nei confronti dei miei pantaloni, l'ho rivisto poco prima di partire per la Spagna, e devo dire che l'ho trovato in una forma straordinaria, e il fisica straordinaria, anche la sua amorosa era in una forma straordinaria. Sì, grandi dubbi. Non avrei saputo chi scegliere dei due, sinceramente, tanto che erano belli. Ma detto più o meno, ragazzi, che volete da me? Io mi diverto ancora, io sono ancora motivato, io credo di poter dare ancora qualcosa. Lasciatemi stare, se sto bene così, lasciatemi stare, sto bene così. Io non posso che prenderne atto, per amicizia, per affetto, certamente. 2 anni sono tanti però. 2 anni sono tanti, però evidentemente si sente di farlo, evidentemente c'è qualcuno che, come dire, lo segue in questa sua convinzione, evidentemente c'è ancora qualcuno che ha torto o ha ragione, io propendo per la ragione, non riesce a immaginare un motociclismo senza di lui. Sì, certo, noi naturalmente non disturberemo mai il manovratore come sui treni tram di Milano. Grazie ragazzi, è stato bellissimo anche oggi. A presto. Scavalliamo il Gran Premio d'Ungheria, e poi mi sa che avremo altro da dire martedì prossimo. Grazie Filippo Aureggi in regia con Gianmarco Ferronato, Daniele Di Trani in assistenza, Claudio Schiattone in redazione. Ci sentiamo domani alle 2. Ciao. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.